init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Dalla combinazione lisergica d'elementi del Conte Electrobogo e il Medferit Simophonic nasce il progetto Gain on Top. La console è la loro casa, l'elettronica il pane quotidiano. Hanno aperto i DJ set di Cassius, Bloody Beatrots, Crookers, Sebastian, chiuso gli after show di Block Party, Soulwax, Oasis e Klaxon. Padroni dei mixer di mezza Italia, sfornano remixer e editano le disfunzioni del dance floor. Ospiti, questa settimana, a Music for You, per gentile concessione della Tunes Record. Music for Youth, Radio Sandona 102.2, Radio Sherwood 97.800. Ben ritrovati con In Gain on Top. Sì, come avete testé potuto notare, gli ospiti di questa sera sono i Gain on Top. Buonasera, Gain. Sto domandando come possono averlo notato. Buonasera. Salve ragazzi. Salve. Una buona domanda, Simone. Adesso, ora cercherò di rispondervi. In realtà siamo qui dall'ultima puntata in cui siamo stati qui. Sì, erano 9 mesi che... abbandonati dietro un triclivio. Esatto, per i frequentatori della radio c'è stato per un periodo lo sgabuzzino con scritto "qui non posso entrare" e non solo per i cani c'erano i Gain on Top. I ragazzi hanno continuato a darsi da fare o erano le loro, come si chiama? Oleografie. Sì, esatto, in quelli molti locali, da quando li abbiamo lasciati, quando ci siamo visti l'ultima volta. Faceva ancora caldo e si sudava sotto le braccia, presumo. Sì, cosa che tra l'altro si continua a fare. Sì, non che ora non lo stiamo facendo. Ragazzi, come state? Innanzitutto grazie per la sigla, perché la sigla nuova di Music for You è firmata Gain on Top. Noi abbiamo fatto un altro regalino, l'avete sentito? Bellissimo. Immagino. No, siamo emozionati. Da non dormirci sopra la notte. Per la fattura della sigla arriva il 31 qua di ottobre. Ok, 30 ottobre, basta che ci siano 3 zeri dietro e nulla di più, e anche una virgola nel mezzo, però possibilmente dopo la prima cifra numerica. E dopo questo scambio di capponi noi andiamo a dire che i Gain on Top sono come sempre Bugo qui a fianco a me e Simophonic un po' più distante. Hanno bisogno di presentazione sta persona? No, non per credo. La rubrica facciamoci gli affari degli altri. Sappi che Bugo ha cambiato il suo stato nella carta d'identità. Sono diventato donna. Il ragazzo si è sposato. Allora, avevo già detto che il programma aveva preso una deriva un po' scandalistica, un po' così. E quindi sono ben felice di alimentare quella che sembra essere la notizia meno interessante del secolo. Il nostro editorialista nuovo è Carlo Rossella, dobbiamo... Pensavo Carlo Mali. Music, più o meno siamo lì. Music for Youth 3000 vi fa sapere che Bugo si è sposato. 3000 volte, tra l'altro, esatto. Speriamo quelli che prenderemo di testa prima o poi, fraccando la testa stessa nella spina. Tra l'altro io volevo aggiungere che il matrimonio di Bugo è stata la cosa più stilosa dopo il matrimonio di Don Johnson di Miami Vice. E a noi non ci hanno fatto entrare, nel senso che... Io c'ero, posso confermarlo. La security ci ha respinto all'entrata. Giustamente. Lei ha proprio assunto i bastardi, esatto. Noi eravamo tra le quindicenni in delirio e non so perché non mi hanno fatto... Non mi hai firmato neanche un poster, Bugo, non capisco. No, perché avevo venduto l'esclusiva... No, perché sei venuto abbastanza bene, sicuro di... In parte a Bedroom Ground Boy. No. Stanno segnalando dei poster che sono appesi qui nel nostro studietto. Comunque Gain on Top che si trasformano come, non lo so, i Power Ranger con delle tutine aderenti di come qualche colore. I Pokémon si evolvono. Esatto. Poi stabilite voi chi fa Pikachu, vedete voi. I ragazzi che si evolvono in Gain on Rock. Sì, infatti abbiamo scelto questo nome Gain on Top apposta perché è versatile, mica siamo scemi, eh. Se facciamo rock si chiama Gain on Rock, domani facciamo jazz, Gain on Jazz, Gain on Pop, Gain on Pop, quello che quello che volete. Ma soprattutto, perché questa evoluzione, si chiederà la gente? Vabbè, ma più che altro è un involu- no, ma parla Bugo che sul rock. Sì, che sono fresco di una 152 grappe bevute, per cui ho la parlantina facile. No, è stata un po', diciamo, una... Vabbè, non abbiamo mai fatto mistero della nostra passione comunque per il rock, e tuttora continuiamo spesso nei DJ set come singoli a suonare rock and roll in diversi club. Chiaramente spesso si crea un po' una sorta di fraintendimento quando facciamo dei set come Gain on Top, perché appunto magari un certo tipo di pubblico resta un po', diciamo così, va un po' in confusione, perché i nostri set chiaramente come Gain on Top sono tendenzialmente virano più verso l'elettronica, l'elettro e quant'altro. Quindi ci siamo detti, era comunque un peccato non riuscire mai a fare dei set insieme suonando rock. E quindi abbiamo detto, beh, sarebbe comunque carino in alcune circostanze particolari, come appunto c'è già successo appunto per l'after show degli Oasis, piuttosto che dei Kasabian e di altre band a noi molto care, di dar vita a questo progetto che si chiama Gain on Rock, in cui sostanzialmente facciamo ciò che di norma facciamo come Gain on Top applicato al rock. Bene, a questo punto io questo Bugo dopo il matrimonio è assolutamente esaustivo. No. A me era, io avevo una battuta di una tristezza incommensurabile su questo Gain on Top pop rock. Facessero telenovele, sarebbe Gain on Sop. Esatto. Devo annunciare che dopo di questa vado a casa. Ciao, grazie mille. Grazie. Abbassare i volumi e andarci. Ringraziamo a favore. Prego. Nell'editing finale sarà tutta una bippata, presumo. Esatto, sì, bestemmia, sì, un bip unico sulla mia persona. Punta alla rovescia, neanche toccate la telenovela piemontese, se qualcuno in questo studio ne ha ricordo, a mai dire TV. $2 million e andiamo con la prima canzone della serata. Si parte con i Kings of Leon, Simofoni, che mi ha detto: hai ascoltato il CD? Io gli ho risposto: assolutamente no. Beh, t'ha fatta anche bene. Questa è stata più o meno esatto. La risposta. Erano anche apprezzati da te i Kings of Leon fino all'album precedente, mi sì, pare. Tra l'altro, più dell'album precedente mi facevano gli album prima, però l'ultimo album sono tornati ad un folk, però un folk non come facevano una volta, abbastanza indipendente, ma un folk commerciale, dunque non mi sembrano Shania Twain. Sono vestiti leopardati, sì. E vanno in giro nel deserto. Non lo so, hanno fatto un video abbastanza ambiguo, ma ascoltate il CD che insomma, e quindi, magari non compratelo perché via di streaming. E quindi se assomigliano a Shania Twain, questo non ci impressiona molto. Ovviamente domani che mi troverò dei messaggi di fan scatenate dei Kings of Leon, ragazzi, certo. Io la penso così. Il problema è che Simofonica invidia chiunque abbia una barba e dei capelli lunghi. Esatto. E quindi... Il problema è comunque che sono i capelli lunghi. Lui dà per scontato che le fan di Kings of Leon ci ascoltino. Ah, abbiamo... perché non siamo in diretta all'Azzario. È una grande supposizione, ma il singolo quantomeno non è così folk. No, e bello, quantomeno non ci fa neanche tanto schifo. No, dai, possiamo dire così. Visto che l'album Simofonica avete di non comprarlo, e non compratelo, se no interverremo di taglio sul vostro sternocleidomastoideo con un badile. Esatto. Accontentatevi del singolo stesso, che è Radioactive. E adesso andiamo a ascoltarcelo sulle frequenze in etere di Music for Youth. Oh, Radioactive dall'album Come Around Sundown, l'ultimo licenziato dai Kings of Leon. Questa è Music for Youth, Radio Sharp 97.8, Radio Sandona 102.2, Alvise e Favotto, che mi guardi con quegli occhioni blu da cerbiato, vorrei dire ammaliante come pochi. Esatto, è tempo di fare qualche domanda ai Gain on Rock. Preferite così stasera, vero? Immagino. Io vado subito a svelarvi la prossima canzone, ossia stiamo per presentare, sappiatelo tutti, un singolo dei Gain on Rock. Ce ne volete parlare? Bogo ride, no, perché veramente il singolo dei Gain on Top, ma comunque vabbè, ma c'è un po' di... ci piace alimentare questa confusione. Esatto, sì, sì, sì, è sì, arrivato uno dei Gain on Z. Ciao, volevo farvi i complimenti per la canzone che c'è in sottofondo, Death in Vegas. Grazie Scorpio Rising, grazie, sì, che c'è lì, cade una buona scelta, eh? Prego Bogo, no, visto che tu stasera le grappette te le sei prese, parlacene. Vai, così a braccio. Vai a braccetto. Beh, innanzitutto è una veramente un'anteprima, nel senso che l'abbiamo fisicamente ultimata, nel senso che è comunque un promo che sarà inviato a breve a... adesso non voglio svelare troppo perché insomma è tutto ancora un po' in fase di costruzione. Il brano è sostanzialmente finito, manca la voce femminile che appunto dovrà dare il colore generale al pezzo. Ironicamente il pezzo si chiama Gain on Top Our Small Town Rocker, ovvero ci proviamo, ma comunque siamo orgogliosi e fieri delle nostre umili origini di un, se appunto di venire da un piccolo paesino. E per il momento il pezzo si presenta così, ancora un po' diciamo allo stadio grezzo, però già un po' rende l'idea anche di quello che sarà un po' il nostro nuovo fronte per quanto riguarda le produzioni inedite. E a proposito di produzioni, vedo che in casa Tunes Tunes Records ci sono succose novità. Sì, guarda, quest'anno devo dire proprio di sì. Adesso abbiamo una serie di release in programma, da qui fino a, oddio, fino a febbraio. Siamo già insomma con una scaletta abbastanza ampia di progetti. Faremo uscire il nuovo disco di Aladdin, buon Aladdin dei Remaining Scratch, nonché insomma co-conduttore di Tropical Pizza. E con un suo progetto parallelo più diciamo dance oriented abbiamo nel cassetto la produzione di una band finalmente, che sì, era un po' il nostro... L'ho scoperto guardando la tua pagina, sì. Io ti spio, questo è stalking, te lo dico, però sì, io ti sto seguendo. Insomma, come avevamo già anticipato, l'idea è appunto quello di partire da sì, siamo partiti un anno fa, ma comunque di ampliare sempre il più possibile i nostri orizzonti, sia dal punto di vista delle proposte che anche speriamo delle opportunità per quanto riguarda appunto giovani band, produttori, DJ e quant'altro. Vogliamo sponsorizzare questa band che state producendo? No, ancora no, ancora tutto top secret. Non si può dire nulla? Non si può dire nulla, no, no, finché non abbiamo... Non abbiamo un contratto firmato col sangue, perché da noi si funziona così. Che anche loro firmano col sangue, poi sì, portano dei cannoli. Esatto. Sì, poi portano dei cannoli ogni volta e vengono sostituiti con delle pistole, sono le solite cose. Siccome manca poco alla finale di Scorpio Rising di Death in Vegas, io direi che è il tempo di cedere la parola al inedito, il in tempo fase grezza delle mele dei Gain on Top. Volete presentarcelo voi? Ci pensa il Simo? Allora ragazzi, questi sono i Gain on Polka. Gain on Top are Small Town Rockers. Yeah. Gain on Top alla Small Town Rockers, e siamo tornati in studio. Music for Youth. Sì, Favotto, perché sorridi a nulla? Questo sorriso a 36 denti mentre parli. Che possiamo anche accorciare come sorriso ebete. Esatto. Bentornati in studio, come si diceva pochi secondi fa. Gain on Top. Prova, posso prendere la parola? Sì. Abbiamo avuto di... anche registrazione. Posso parlare per cortesia? No, vuoi anche spiegare, Simo, perché a questa facile ironia. C'è un sistema volumetrico per il quale non si possa parlare nel momento in cui si va a registrare. Tecnologia che tipo Minority Report, sì, c'è proprio una meno. Basta muoversi, si aprono finestre virtuali. Esatto. Incredibile. Noi eravamo stati a Radio DJ, ma devo dirgli che qua ci sono delle robe incredibili. Guarda, se vuoi portare due foto, tipo stile Area 51, poi loro ci studieranno e fra 20 anni raggiungeranno il nostro sviluppo tecnologico. Fantastico. Esatto. E nel mentre un alien ci spunta dallo stomaco, posso fare una domanda ai Gain on Top, per cortesia? È la cosa per la quale è stato assunto dal sottoscritto, per cui si provvedi. Bene. Cari Gain on Top, allora, vogliamo iniziare a parlare di cosa succede questo fine settimana e che vi coinvolge? Proprio da vicino vicino. Vicino vicino. Dunque, sabato sono a pranzo da mia mamma. Beh, bene. Ah, questo vuol sapere. No, dai, a parte gli scherzi, venerdì sera 5 novembre, cioè venerdì prossimo, ci sarà la Sby Night Rock, è un po' una nuova formula, abbiamo voluto portare un po' alle origini, cioè, come spiegavamo prima, nostra prima passione, alla nostra festa organizzata da me, Luca e soprattutto da Luca Cassiano, in arte Stracassian. Beh, un saluto a Luca, no? Sì, che saluta lei. Direi anche di sì. Anche no. Anche vabbè, Luca, no, allora niente, dai. Dai. Assolutamente. L'omonimo dice di non salutare. No, beh, bisogna. Noto ultimamente anche con l'H di Mister Giulio. Sì, da due sabati fa è diventato Mister Giulio e vi spiegheremo fuori onda il perché. E fatevelo spiegare da lui. È troppo una porcata per dirlo in diretta. Saltiamola per oggi. A parte gli scherzi, sì, faremo questa Sby Night Rock di venerdì, un po' per noi stessi, perché il rock ci piace tantissimo, un po' per la cerchia di amici nostri più stretti, che era un po' più la nostra età, insomma intorno ai 30 anni, insomma, a parte Bugo che ne ha 21. Pensionati. Sì, pensionati. E però cerchiamo insomma di coinvolgere anche le nuove leve che fino adesso sono sempre stati abituati con una Sby Night del tipo, tra virgolette, elettronico, comunque dance, di cercarli di portare in questa dimensione un po' rock and roll che ci appartiene forse più di quella dance, insomma. Oltre a voi altri due bei giovinotti, perché ricordiamo sempre che Bugo è piccolino, chi ci sarà presente? Oltre ai Gain on Rock ci sarà Mister Giulio, appunto, alla voce. No, forte di scherzi, saranno due band locali che tra l'altro noi amiamo particolarmente, i Seven Sisters Hot Peluches e i Poland the Bonopolis. Eh sì, emergenti perché esatto. Non, sono novelli. Ma si stanno ritagliando uno spazio di notevole interesse qui tra via Ereditai e via Cesare Battisti. Esatto. Dunque noi ci crediamo e li portiamo, soprattutto perché costano poco. Di notevole interesse estetico, tra esatto, l'altro. Esatto, sì. Sono bellissimi tutti, e soprattutto il Koz, che anzi scusa Elvis, che ultimamente ce l'hanno loro, e poi ci sarà un guest che è il nostro amico DJ Aladdin, che verrà a mettere dei dischi per noi, verrà a fare un DJ set un po' particolare, un live set, perché metterà dei dischi e nello stesso tempo andranno delle immagini sincronizzate con i dischi che mette. Dunque, se mette Nirvana, dietro ci saranno i Queen. Boh, non so perché. Pensa a te, Favotto. Cioè, io e te contemporaneamente non sappiamo neanche fare le cose più basilari. No, infatti io ho già problemi in parla e respira, capito? E per fortuna che il tuo cuore è un muscolo che va per sì, conto suo. Esatto, sì, altri... sì. Non sta ora... Ho qualcosa. No, la tua tossita, basta che sia distante dal noto microfono ambiente di Radio San Donato. Quello che tu non sai è che non è successo niente in questa stanza, ma è partita una registrazione nell'altro studio. In realtà, anche agli amici di Padova, voglio dire, cosa avete da fare venerdì sera? Andate al Santo, sì, bevete un Jumbo, che è uno spritz che ho bevuto qualche giorno fa e sono stato a Padova. Dai, padovani, esatto, siete qua vicini, venite a portare questi 10 euro a noi che servono, punto primo. Sì. Punto secondo, a divertirvi con un po' di rock and roll, dai, di venerdì sera. Muovete quelle chiappette flacide. Tra parentesi, in tutto questo delirio di onnipotenza, verbale, non abbiamo detto dov'è. Esatto. È a casa di Simofonica. Sì, con la mamma, vero? Perché dopo è al mitico New Age Club di Roncade, il miglior club rock d'Italia. Scusa, Lelle, dopo mi darai i soldi 50 euro. D'altronde ci passano un po' tutti per di là. Vogliamo non esserci io e te al concerto di Black Rebel Motorcycle Club? Noi. Credo che anche in quelle occasioni ci saranno i Gain on Rock a fare l'after show. Stiamo lottando con Momo per capire. Momo, se sei a proposito di Padova, se sei in ascolto, non per i coglioni, scusa, faccio cazzo sono? Vabbè, è il nostro collega, sì, esatto. Sulla stessa emittente, esatto, quindi cioè, se non ci ascolta sei proprio un caffone. Esatto. Uomo, sì, la segue la pista a loro. Insieme, facciamo, ah, insieme? Insieme. Con le parrucche. Ah, tra l'altro volevo dire anche questa cosa. Se siete all'ascolto, e certo che lo sarete visto che fate 37.000, no, di solito. Ascolti? Ascoltatori. Se venite a Smainate Rock, cercate di vestirvi un po' rock. Cioè, se venite là con le Buffalo, non entrate. Il giubbottino dell'essenza. Il giubbottino dell'essenza, le Buffalo, le Calt, non entrate. Le Calt. Quanta meraviglia, scusa, in questa citazione. Vorrei citare anche le Acu. Scusa. Ah, sì. Io qui mi trovo fuori. Cosa sarebbero? Sei giovane. Sono una specie di Calt, buona roba. Si avvicinano. Il Tamarri anni 90. Vabbè, comunque sfondate i vetri e le altre macchine con quelle robasse lì. Quando, e con il giubbottino all'essenza puliteci gli spinestrini dopo aver fatto le classiche porcate in zona industriale. Mi ricordo una canzone tecnico che era dei Virtualismo e si chiamava Ismo Plastico. C'è una Madonna. C'è un momento è così. È fastidioso quando fa così. A proposito del tecno, adesso mentre loro qui mi danno fuoco, tu puoi presentare la prossima. A proposito di tecno, adesso presenteremo la canzone che ho portato io. Infatti, la canzone è portata da Simofonic, il kit di primo soccorso. Sì, ragazzi, attenti alla cassa dritta di questa canzone, perché esatto, potrebbe veramente farvi male. È un classico stile Benny Benassi. A parte gli scherzi, queste sono una band, anzi, sono delle ragazze, una band interessantissima. Stragiovani, mi pare che abbiano una 19, una 18 anni, due Reuti. E se si può dire, sono veramente. Sì, si può dire. Si può dire Reuti. Da Stoccolma, mi dispiace, ma siete veramente orribili, però siete brave. Ragazze, se dovete ingoiare il frigo, fatelo almeno con la porta chiusa. Esatto. Che poi si vede. Però insomma, non tutto male, viene per nuocere, queste sono brutte, ma sono veramente brave. Hanno fatto una cover, si può dire anche quasi folk, ma non un folk schifoso come quello di Kings of Leon. Hanno fatto una cover di Fever Ray, di una canzone When I Grow Up, se non sbaglio si chiama. Bravissimo. La canzone è originariamente una canzone alla Roiksopp, atmosfere nordiche, loro l'hanno resa folk, che è veramente bella. E infatti per questo due è diventato Roiksopp. Grazie, vado. Grazie mille, arrivederci. Questa è la terza battuta falciata. Meravigliosa questa. Un intervento a gambe tese. Roiksopp. Chi è questo Fever Ray? In realtà si cela dietro questo pseudonimo anche il progetto The Knife. Sì, diciamo che è una branchia del progetto Knife. Canta questa ragazza meravigliosa dal nome assurdo, che non si può. No, veramente bella, sì? Bella, non sto scherzando, bella. Quella di Fever Ray, sì, è carina. Sì, lei è bella, quella che ha fatto la cover, non tanto. Io pensavo fosse parete di Sugar Ray. Ah, non è Sugar Ray, ma non è Ray Charles. Non c'è niente, no. Comunque, se andate a vedervi i video di When I Grow Up originale di Fever Ray, merita veramente. Ma lei quindi del duo è la ragazza, quindi quello che resta fuori non è Fever Ray, è il suo moroso dei The Knife, mettiamola così. Sì, esatto, ah, esatto. Bon, questo programma si sta trasformando in un'oasi del gossip. Sì, si sta trasformando in un'oasi. 3000, ragazzi, esatto. La ricostruzione dell'albero genealogico di tutta la Svezia, esatto, tra l'altro volevo ricordare lei era sposata. Ho un'altra cosa da dire su questo, sì, prego. Io, a me piace fare sponsorizzare le cose belle, sì. Questa canzone l'ho trovata su un sito, su un blog che si chiama Music Ninja, musicninja.com, che prima ho depredato. No, ho depredato da non so chi me l'ha passato, forse l'ho trovato da solo. Però prima ho suggerito al nostro amico Daniele Terzariol di andarsi a cercare un po' di musica nuova in quel contesto, perché merita. È un'indiretta critica al fatto che non mettiamo nulla, sì, di nuovo. Sì, infatti. Il fatto che mettete Kings of Leon, ragazzi. Comunque io volevo concludere dicendo che una delle due cantanti è sposata con un alce. Ah, sì, oh, perfetto. È risaputa questa cosa. Si fanno adesso i massaggi con la polenta gialla. Esatto. Vedi, sì, che tutto torna, perché noi alla mucchiata natalizia ci vestiremo da renne. Vedi? Dunque. E qui. Chiuso questo ennesimo motivo circolare della nostra trasmissione, direi che possiamo andare a sentirci When I Grow Up dei First Aid Kit. Una cover di Fever Ray. When I grow up, I want to be a forester, run through the moss on high heels. That's what I'll do. Throwing out a boomerang, waiting for it to come back to me. When I grow up, I want to live near the sea, crab claws and bottles of rum. That's what I'll have. Questa era l'elettronica strapompata dei First Aid Kid. Fanno male le orecchie, ragazzi, per la cassa dritta. Immagino proprio di sì. Sì, gente che balla in mutande sul divano con una scopa in mano. Perché ragazzi, non esiste. Viva, sì, tra l'altro sei meraviglioso. Invidia al coniglio di Cambretti. Sì. Esatto. Il coniglio di far serata anche tu in discoteca. Tra l'altro, il coniglio di Cambretti non è uno che salta fuori tipo dagli ex ottavo. Ecco chi era. Mi pareva che fosse. Abbiamo parlato prima a tavola, guarda, sorvoliamo. Cioè, volete offenderlo? Non c'è problema. No, Siamo ai Manic Street Preachers, una band cara a 4 italiani su 4 all'interno di questo studio. Simofoni che fa sì con la testa, Bogo anche, Favoto muove i capelli alla Carlona. E quindi vuol dire che va bene. I ragazzi hanno anche suonato a Cuba. Aperta e chiusa parentesi. Beh, anche perché credo ci sia un socialismo abbastanza poco nascosto da parte dei ragazzi. Credo. I figli dei minatori, direi che se non votano socialista. Il classico figlio dello scioperante lì. Cioè, se ho qualche conoscenza musicale che non ho, però. Sicuramente Bogo è cresciuto più di noi, vicino all'epoca Manix. Vuoi dirci qualcosa? Ma Bogo ha fondato la CGL, dunque. Parlo più come sindacalista che come appassionato di Britpop in questo caso. No, hai colto nel segno. Loro appartengono alla cosiddetta tradizione ben dipinta dal film Riff Raff, se qualcuno di voi l'ha visto. Cioè, diciamo così, del mamma mia, ragazzi. Vai. È diciamo così il periodo, diciamo la cosiddetta era thatcheriana inglese, no? In cui comunque la musica pop, una parte della musica pop, ebbe anche un ruolo, diciamo così, politico piuttosto rilevante. E band come gli Manic Street Preachers, di fiera origine working class, sono uno dei più fulgidi esempi di questa, diciamo così, rivolta dal basso nei confronti di un sistema che in quegli anni lì stava comunque soffocando la bella Inghilterra, la terra di Albione. Oh, ho chiesto il tuo intervento perché, sempre a citazioni di film, se hai visto I Love Radio Rock, c'era un personaggio che si chiama Il Tardone. Ecco, io sono Il Tardone perché ho cominciato a ascoltarli più o meno da quando hanno pubblicato If You Tolerate This, okay, Venue Children Will Be Next, era più o meno il 97-98. Siamo nell'apice della loro carriera. Io ero piccolo e da lì ho cominciato a seguire. Io ero già vecchio, allora. Io avevo già 30 anni. Bogo era già vecchio, ma in realtà mi metto che è giovane perché compie gli anni tipo il 29 di febbraio, per cui adesso al momento che sei in 6 anni, 16 7. Anni ho. Beh, un bel adolescente, insomma. Tanti compiti per domani. Esatto, sì, domani interrogazione, cosa non, fare? Non ti faccio entrare un'ora dopo, anche se finiamo tardi di registrare, sappilo. Noi possiamo andare ad ascoltarci il pezzone nuovo dei Manic Street Preachers. Sì, un nuovo singolo, finalmente. Avevano un bassista disperso negli Stati Uniti. Questa cosa è famosa. Cioè, un giorno l'hanno ritrovato in un villaggio west. Non sto scherzando. Sì, sì. Lo hanno visto, lo hanno fotografato come si fa con i panda in Tibet. A quel punto poi lui scappa come i panda. Mi poi pareva... non si riproduce e loro cambiano bassista. Mi pareva si fosse anche proposto come benzinaio, tipo nel villaggio. Immaginate il classico sbronzone da bar che dopo quattro birre ti dice: sì, comunque io sono il bassista di Manic Street Preachers. Sì, e gli arriva un missile terra-aria sulla bocca, perché zitto, continua a bevare con il classico accento statunitense. Esatto, bevare soprattutto. Manic Street Preachers su Music for Youth. Questo è il nuovo singolo dal loro album, per ora senza nome, o se ce l'ha sappiate che io sono il tardone, quindi assolutamente non lo so. It's not war, just the end of love. la guerra, ma solo la fine dell'amore. Questo è in Manic Street Preachers, pronuncia sballatissima per Lele. Fa voto. Praisers. For the Young, che esatto, è l'album di sottofondo dal quale è estratta questa traccia di Julian Casablancas per la felicità di Simofonic, ospite questa sera con Bobo. Ma non è che sono così felice, vabbè, sì, non so, è che è il mio gruppo preferito. So che apprezzi gli Strokes, per cui... Sì, ma l'album di Julian poteva risparmiarselo. Ciao, grazie, arrivederci. In effetti non è sto granché. No, per niente. 9 tracce fatte anche male. Poi ne metteremo una di buona, che invece so che ti piace. Sono ospiti, bisogna pure essere galanti. Cioè, il cliente ha sempre ragione. Diciamoci la verità. Adesso... Dunque, allora cambia subito immediatamente la scaletta. Esatto. Subito. Cosa vuoi? Qualcosa del Palmariva? Dimmi tu. Poi... Adesso subito Nino D'Angelo per cominciare. Tra gli ascolti, la sveglia della mattina di Simofonica. Guarda, se avete una Medeo Mindy dannata, io sarei contento, ma non sto scherzando. Sì, davvero? 1950 di Medeo Mindy è una delle mie canzoni preferite italiane. Ossa. Santo cielo. Bugo anche ve la canta un attimo. No, non serve. Bugo purtroppo, purtroppo interpellato, perché ora è il turno del tuo pezzo, del quale mi hai detto che ne sai veramente a pacchi. Cioè, infatti, cioè, noi, tu guardaci, noi siamo tuoi tanti piccoli discepoli. Ne so quanto basta, ovvero veramente poco nulla. No, dai, diciamo un po' come è nata. Beh, è un disco che ho letteralmente frugato, quello di Black Mountain, che è una band veramente molto molto interessante. Poi io in sto periodo qua sono abbastanza in fotta comunque con, diciamo così, quel tipo di atmosfera, un po' desert rock, un po' southern americano e via dicendo. E li ho scoperti per caso, qualche diversi mesi fa ormai, perché comunque il disco è abbastanza datato, ascoltando Vulcan, che è stato un po' la loro, diciamo così, mezza hit, il cui video ha girato parecchio per Brand New. Poi per caso ho approfondito, ho comprato il disco e mi sono letteralmente innamorato di questa Stay Free, giusto? Sì, sì, bene. Stay Free, esatto. Che è una, veramente una gran bella ballad che ricorda un po' i Grateful Dead, quel mondo lì, no? Un po' 70, se vero, vogliamo. Sì, un po' vagamente da questo retrogusto un po' psichedelico, leggermente folk, via dicendo. Boh, devo dire altro. No, hai detto benissimo, perché esponenti del rock psichedelico del famoso Canada di noi altri, dal ben 2004, i ragazzi vengono da Vancouver, hanno prodotto ben 3 LP, dice la nota qui davanti ai miei occhioni, Black Mountain in the Future e Wilderness Art del 2010, esatto. Ben 2 EP, dei quali posso anche soprassedere dal punto di vista dei nomi. L'album In The Future si è preso pure un bel premietto, cioè l'album di miglior rock alternativo ai Juno Awards del 2009. Fa voto, immagino tu non ne potrai stare più senza a partire da questa sera. Ma io no, io, se posso dire la verità, già li conoscevo per una volta nella mia vita, so qualcosa. Anche io sapevo che erano canadesi, come le tende. e coppia collaudata. Sì, ma veramente, queste battute veramente, beh. Sandra e Raimondo, pensa che ormai bisogna smetterla. Ci scambiamo anche le mutande, per cui esatto, sì, perché più o meno come tale. Non voglio, non andiamo oltre, dai. Chiudiamola qui. Bogo nel cul-de-sac, esatto, quanto di mutande. Dice di chiudere qui la discussione il buon Bogo, quindi no, e noi siccome il cliente ha sempre ragione, spazio alla musica. Black Mountain, questa è Stay Free, il pezzo portato dai nostri ospitoni. Thank you. Stay Free dei Black Mountain, questa è Music for You for Radio Sharevo 97-800, Radio Sandonà 102-2, fa voto, sei ancora qui purtroppo per sì, noi. Stai libero, la stessa cosa che dicevano a Baresi ai tempi d'oro. Allora, partono delle risate in sottofondo. Adesso, dopo questa battuta... Ma anche chi volete libero, Gesù Barabba. Esatto. La classica battuta in cui ti cade il pianoforte di George Clooney. Tu vai in cielo e non vogliono fare a cambio la macchina del caffè. Là. Comunque, le risate che siete in sottofondo sono dei buoni gain on top, trasformati in gain on rock questa sera, interpellati nuovamente perché è il turno della traccia di Simofonic. Tornano di moda i Pixies a Music for Youth e Simofonic con la vuvuzela festeggia. Questa era la vuvuzela. Sì, aspetta, poteva essere qualcos'altro. Prego, Simofonic. Beh, che dire di Where is my mind? Cosa si può dire? Colonna sonora di Fight Club. Beh, ma cosa si può dire? Che Brian Molko l'ha rovinata un milione di volte dal vivo? Così. Davvero? Sì, sì. Cosa si può dire questo? Una cover classica dei Placebo. Già li avevamo offesi due puntate fa, mi pare, più o meno. Vabbè, ma offendiamoli tutta la vita. Dai Placebo, che ragione hanno di esistere? Olla. Che ragione hanno di esistere i Placebo? Basta, punto. Bene, ora partirà. Bene, grazie mille per gli insulti che mi arriveranno su Facebook da domani. Bello, c'era stata questa puntata qualche puntata fa in quel di Music for Youth con un gruppo che ce li ha portati come suggerimento. Noi li abbiamo evitati accuratamente per un anno e mezzo. Cioè, ma d'altronde l'ospite è sempre è un mio grandissimo amico, cioè Gianluca Urban, li adora. A me non piacciono, dunque, salutiamo Gianluca. Salutiamo Gianji, tra l'altro. Comunque un aneddoto sui Pixies. Sì, prego. Sapere anche un aneddoto su Gianluca Urban. Sì, Gianluca Urban non lo so. Per il capitolo Music for Youth 3000. Ma tutto si ricollega, fa parte di Seven Sisters Hot Peluche. Sarà anche lui protagonista venerdì, questo che viene, il 5 novembre, a Spy Night Rock. Volevo proprio dire questo, anche perché questa non era un'ora di cialtronate, ma in realtà lo scopo si ricollega, ragazzi. Era quello di ricordare la Spy Night Rock del 5 novembre in nel New Age Club di Roncade. Ci sarete anche voi, ci teniamo a sottolinearlo. Sì, chi da purtroppo io vi accompagnerò con il mio fazzolettino bianco, però vi mando Terzariol, che dovrebbe far per entrambi. Sì, faccio le veci di entrambi. Il classico gemello siamese. Speriamo tu faccia le veci. Sono le veci, ovviamente. Entrambi, non come, e guarda come mi ricollego. La scorsa puntata si è detto di quello dei Dillinger Escape Plan, che quando ha finito di suonare a Reading ha fatto i bisogni sul palco centrale. È vero, un'ottima citazione colta, Terzariol, veramente complimenti. A parlare di Ciappan. Andiamo dall'alto al basso, colleghiamo... Da Gianluca Urbana, la shit... veramente. D'altronde, dalla merda nascono i fior, esatto, e questo si può anche dire in radio. Non nasce niente. È una citazione, quindi io mi sento. Un altro po' sugli specchi. Io volevo dire, a proposito di Pixies, che mi sento di consigliare anche l'album o gli album solista di Black Francis. Eh sì, perché quando ha finito di dilettarsi con i Pixies, mi pare che tra l'altro Where Is My Mind venga da Sulfur Rosa 1988, giusto, più o meno. Sulfur Rosa, sì. Adesso ci colleghiamo a tutto. Sulfur Rosa, un gruppo di ragazzi inglesi hanno preso questo nome per fare un loro gruppo, appunto, con il loro grandissimo successo Lucky Lipstick. E arrivederci dopo questa vada a casa. E saluti una Sulfur Rosa, tra l'altro, in cui la chitarra è suonata da Gianluca Urban, lo sanno tutti. Esatto, le ragazze erano Gianluca Urban. Noi le cialtronate le abbiamo finite anche per questa breve parentesi, sì, che ci tiene ancora vivi. Andiamo ad ascoltarci Where Is My Mind dei Pixies. Questa è Music for Youth, RSD 102.2, Radio Sharevo 97-800, in studio con noi i Gain on Rock per sponsorizzare la Spy Night Rock di venerdì 5 novembre. Stop. We'll be right back. Grazie Pixies, questa era Where Is My Mind da Surfer Rosa del 1988. Siamo tornati in studio Music for Youth e ci avviamo alla domandina dei contatti. Signori gay non top barra rock, quello che volete, quali sono i vostri appuntamenti futuri, vicini? Si erano un po' appisolati ultimamente, non so se stava lentamente scemando l'effetto delle grappe. E ho visto proprio uno scalettone nel vostro sito. Sì, beh, come appuntamenti dal vivo, diciamo che sì, novembre, dicembre, gennaio siamo abbastanza presi. E adesso così a mente ti dico appunto 5 novembre Sby Night per Gain on Top Rock and Roll Version, appunto, ovvero Gain on Rock. Il 13 novembre saremo sempre con il marchio Sby Night allo Sby Night Festival al TNT in Lugugnana di Porto Gruaro. Carino, bel festival, ci saremo noi, Gigi Barocco, Spiller, una valanga insomma di altri amici DJ e amici vari, per un festival con oltre 15 DJ in tre sale, insomma non sto qui a raccontarvi tutto, comunque sarà una mica cotica. Esatto. Sì, esatto. Poi, se non mi ricordo male, il 27 novembre siamo dopo i Black Rebel. L'8 dicembre, 4 dicembre saremo al Revolver a San Donà, il 23 dicembre a Padova, in una location ancora segreta, ma comunque saremo a Padova a fare l'apertura di un DJ importante, non possiamo dire altro. Ad ora, tornando indietro, ho saltato il 18 dicembre, allora fate così, www.gainontop.com, ci sono tutte le date, andrò anch'io a vederle perché... Era quello che volevo dirvi io. Allora ci vediamo direttamente là alle serate. Esatto. C'è anche un altro indirizzo che è doveroso ricordare, che è quello della vostra etichetta. Sì, www.tunstunsrecords.com, e lì trovate, oltre appunto alle nostre produzioni, quelle che facciamo uscire su Tunes Tunes, anche un'altra serie di produttori DJ e a breve anche band, a cui appunto dedichiamo il nostro tempo, la nostra passione, la nostra voglia per cercare di fargli emergere dal marasma della musica digitale. Visto che di indirizzi si parla, www.musicforyouth.wordpress.com è l'indirizzo del nostro blog parallelo al quale potete scaricare questa puntata in streaming, MP3, podcast, c'è anche il ping di iTunes, tutto quel cacchio che volete. La stessa cosa la potete trovare su sharewood.it nella pagina a noi riservata. E cos'altro dire, Favotto? C'è qualcos'altro? Abbiamo saltato i contatti detti alla tua maniera, però possiamo anche farne a meno, sono cose assolutamente dimenticabili tante se, volte. Se volete stare svelti, radio@radiosandona.it è l'indirizzo al quale indirizzare per l'appunto tutto il vostro materiale, se volete, se vi sentite presi in causa o volete partecipare a questo programma. Esatto, se invece volete i Gain On liscio, chiamatelo 0421 560993, buco con la fisarmonica, simofonica, come si dice? Ah, ok. Noi amanti del liscio con la fresa e con la no, quello è simofonico, la fresa, no, classico, fisarmonica e fresa, ascoltateveli. Noi andiamo invece con Julian Casablancas, I'll Try Anything Once, colonna sonora di un film di Sofia Coppola, l'ultimo uscito. Guardo Simofonic negli occhi perché so che Sofia Coppola è una regista che sì, Somewhere piace. Non l'ho visto, ragazzi, non importa, vatelo comunque a vedere, io me lo sono beccato alla Biennale di Venezia, so che apprezzi tantissimo le colonne sonore i film precedenti, anche Bogoff sì, con la testa, non ricordiamo la trilogia, c'è Wikipedia per questo, esatto, comunque, altrimenti scrivete a Favotto. L'ultimo film discretamente buono io l'ho visto in un cinema di San Donà, se devo dire la verità, cinema porno, l'ultimo film discretamente a Lugugnana, sì. E tra l'altro il protagonista era Gianluca Urbano, esatto. Tutto torna, e la signora dei Vaseline, esattamente la famosa signora dei Vaseline. Julian Casablancas, I'll Try Anything Once, questa è Music for Youth RSD 102.2 Radio Sherwood 97 800. 10 decisions shape your life, you'll be aware of 5 about, 7 ways to go through school, either you noticed or left out, 7 ways to get ahead, 7 reasons to drop out. I said, I can see me in your eyes. You said, I can see you in my pants. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down, shut me you. Alone. just take it out on friends. Oh, everybody plays the game, and if you don't, you're called insane. Don't, it's not safe no more. I got to see you. Bentornati, questo è Julian Casablancas, I'll Try Anything Once, dalla colonna sonora di Sofia Coppola, Somewhere. Siamo tornati in studio Music for Youth e non mancano mai le sorprese. Dopo la doppietta Gain on Rock questa sera. Esatto, un nuovo rutilante scambio nell'universo Music for Youth, 102.2 RSD, 97.8 Radio Sherwood. Andiamo a presentare un quarto ospite. Siccome noi siamo gente a cui piace farsi correggere, possiamo dire che questa band prende come citazione gli Aerosmith, ed invece non è vero assolutamente nulla, vero Anna? È giusto così? Anna, ci sei? Sì, e beh, direi. Hai sbagliato. Infatti, giusto, sì, o sbagliato? Sì, ma più che puoi, correggilo, perché, perché no, comunque ne ha bisogno, povero. Ma in verità va anche bene, no, dai, ci siamo ispirati agli Aerosmith. Non è vero è nulla, perché in realtà mi sono documentato e prendi ispirazione da chi? Dai 13th Floor e dei Love. Esatto. Era un mix, cioè un tentativo di fare un mix, ma alla fine è molto più comodo, cioè io ci ho ripensato. Per cui la citazione dagli Aerosmith. Per cui io dico Aerosmith. Ottimo, siamo tutti d'accordo. È più facile così. Bene, abbiamo... Favotto, con chi stiamo parlando comunque? Perché non abbiamo ancora specificato il soggetto. Noi stiamo cantando con la cantante dei Love in Elevator. Qui i Gain on Top si divertono tantissimo. Visto che vi divertite, volete anche intervenire? Sì, assolutamente. Ecco, avete il microfono alto. Se volete salutare Anna. Sì. Ciao Anna. Ciao. È bello cantare con te, Anna. E a questo punto ci dicono che ben presto ci farete visita. Anzi, questo fine settimana. Sì. Voi Love in Elevator venite a farci visita in quelle Revolver Club di San Donà insieme ai Mr. Coma. Siete ben felici di questo, immagino, anche perché incontrerete le nostre faccine gioiose. Bene, no, sì. Love in Elevator, vogliamo dire qualcosa della vostra storia? Perché, insomma, qualcosa da dire c'è. Sì, la nostra storia inizia nel 2004, abbiamo iniziato a suonare, eravamo delle fanciulle, così avevamo voglia di fare del rock, ci abbiamo provato, non so se ci siamo riuscite. Poi, alla fine, il fatto che fossimo per la maggior parte ragazze... Ah, siete tutte ragazze? Eravamo. Ah. Io sono la superstite, perché le altre... Sì, non è facile vivere una vita punk. Non sono finite in un portabagagli. Che fine hanno fatto? In una borsa di plastica. No, nel senso, o c'hai veramente voglia di farlo, o comunque poi ti dedichi a altro, ai morosi, alle cenette. Sono arrivate tutte delle casalinghe. Alle casalinghe, a fare tante altre cose. E risiedono tutte a Voghera, le famose casalinghe di Voghera. Sono tutte figlie di Love in Elevator. Al posto, per esempio, vi è arrivato Francesco Valente del Teatro degli Orrori. Sì, giusto per fare un è nome. È arrivato col secondo disco. E con l'autobus, probabilmente. È arrivato in autobus. Avete fatto a tempo anche a partecipare ai tour di Jennifer Gentle, Shellac, Art Brut e Verdena, insomma. E mai dimenticato i più importanti. I Madonna. I Madonna. Bravo! Ce esatto. Li siamo tenuti alla fine. Sì, perché sai, è come il panettone a Natale, lo tiro fuori dopo. Che sono una cover band di Madonna, no? Sì, sì. Esatto. Di Madonna. E continuano le citazioni. Sì, sento, tutto vero. È vero che avete fatto un video in Nuova Zelanda e che è stato editato più o meno sì, da quelle parti? Siamo andati tutti in Nuova Zelanda, siamo stati lì un mese. Per le riprese abbiamo speso un sacco di produzione. No, non è vero. Sì, diciamo che la regista che ci ha curato anche l'ultimo video che c'è adesso, insomma, per il video e il disco nuovo, era lì per dei motivi di lavoro così, e ha scelto di farci un video lì senza di noi. Comunque è vero che in Nuova Zelanda c'è una proliferazione di conigli perché si riproducono velocemente e non sono in grado di controllarli. Ci sono le nutrie suicide. Le nutrie? Sul serio? Come le nutrie suicide? Ma che bestie sono? È una band, le nutrie suicide. Solo noi gli rubiamo un nome stasera. Fanno queste cose. Come i lemmings, si buttano dai burroni, grandi sì, nutrie. Bravo. Grazie. Oh, vedo che vi trovate, se volete anche scambiarvi i numeri, già sì, che sì, ci sì, siamo. Sì, poi dopo, i numeri dell'otto. Sì. Comunque, in questa telefonica, per sponsorizzare il vostro concerto in quel del Revolver Club con i locali Mr. Coma che salutiamo, in realtà voi avete anche altre date, giusto? Sì, me l'hai fatta andare a cercare. Allora, dopo il 12 novembre siamo a Verona. Ma devo dire i posti, basta la città, o devo dire no, locali? Ma anche i posti, magari si chiama Stube Lorenz Wirt. Ah, ok, puoi fare almeno in quel senso i posti. Bastano le città e la data, facciamolo ecco, così. 13 novembre Cuneo, 19 novembre La Spezia, 20 novembre Milano, però qui voglio dire che è il Cox 18, ci tengo okay. a dirlo. Il 26 novembre al Tetris Trieste, 3 dicembre al Controsenso di Prato, 4 dicembre a Napoli, il 10 e l'11 dicembre col Teatro degli Orrori, prima a Milano e poi a Ravenna, poi il 16 dicembre ancora col Teatro degli Orrori alla Flog di Firenze, e poi vabbè l'anno nuovo, no, dai, l'anno nuovo, vita nuova, e ci pensiamo, magari smettiamo anche. E comunque porterete in tour, immagino, il disco nuovo in uscita, certo, sì, dal quale è estratto motivo circolare il pezzo che andremo ad ascoltare tra poco, e Matari, che esatto. abbiamo fatto anche il video nuovo, e se qualcuno vuole andare a vederlo è già su YouTube. In Nuova Zelanda? No. Dove è stato registrato? È stato registrato nel mondo fatato di una tartaruga che non so dov'è. Che problemi avete? Io dove sto telefonando? Sono a Feltre, in provincia di Belluno. Si prende cose buone a Feltre per registrare le cose dentro la tartaruga. Sono andata a funghi stamattina. Ti ringrazio. Soprattutto se i porcini ti fanno questo effetto qua, complimenti. Domani andiamo a comprare una cassetta, vero Favoloso? 5 kg e via. Anna, ti ringrazio. Grazie. Io a voi. Ricordo per l'ultima volta i Love in Elevator in concerto venerdì 5 novembre in quel del Revolver Club, in quel del Revolver Club con i Mr. Coma. Prima Spy Night venerdì no, 5 loro poi 6. Sabato 6. Ah, ecco, oh vedi. Mio Dio, che disastro. Comunque assieme ai Love Elevator e ai Mr. Coma ci sono anche i Novalisi o i Novalisi, ma io volevo dirlo così. O i Virnalisi. O Virnalisi, proprio lei. I Virnalisi. Sì, o i Fiordalisi. Su questa serie di battute pessime, battute di dubbio gusto. Esatto. Anna, io ti ringrazio, ci sentiamo il tuo pezzo di sì. Love in Elevator, Mata Ari. Ciao, ciao, a presto. We'll be right back. questi erano i Love in Elevator, Music for Youth. Vi ricordiamo l'appuntamento è per il 6 di novembre al Revolver Club con i Novalisi e i Mr. Coma, Love in Elevator in concerto. Siamo tornati in studio, Gaynor Rock ancora ospiti con noi, questa è RSD 102 Radio Shell 187-800. Sì, in effetti è quello che sta per arrivare è un, diciamo, un weekend abbastanza intenso, classico weekend con il morto, nel senso che visto lui al 5 e questo tocchiamo su tutte le palle, ragazzi. Al 5 che cosa fanno le persone? Quelle normali vanno allo Sby Night Rock, al New Age Club con... No, hai proprio sbagliato, perché quelle normali non vengono allo Sby Night Rock, quelle che... Quelli che sanno cos'è Sby Night vengono, quegli altri stanno a casa. Poi niente, si riprendono, sì. Cioè il classico caffè col sale o caffè col limone. E catetere alla mano. Esatto. E due reni, esatto, prenotati su eBay. Le pantofole a forma di cane e al sabato vanno al Revolver di San Donà e vanno a sentirsi del sano rock. Io e Favotto facciamo le poltroncine. Esatto, le poltroncine componibili, nel senso che io posso fare il tavolino, lui invece fa il divanetto, eccetera, limonate pure. Mi piace vedere che i Gain on Top sono ancora vivi e li ringraziamo di questo. C'è Bogoni che si alza in piedi, non so per quale motivo. Stavo cercando dei gadget simpatici da lasciarvi, che veramente ho in tasca. Pensavo un accendino i nostri nuovi adesivi, ragazzi. Pensavo un accendino per darci ragazzi, fuoco. Ragazzi, volevo dare anche Manforte a noi stessi. Non so, ho detto una parola perché mi piaceva. Sì. Manforte 48 a noi stessi. Abbiamo fatto i nuovi gadget. Gadget. Ho visto dei plettri. I plettri, eccoli qua, questi sono adesivi, grazie mille, fustellati a forma di plettro, ma tra poco ragazzi li ordinati dall'America, arriveranno mille plettri veri, vedete quelli che state vedendo adesso, arriveranno fisicamente dei plettri tutti veri, tutti i nostri radioascoltatori vedono e provvedono. No, stiamo parlando a voi due, io, ma è un programma radio. Non siamo in diretta. No, e non c'è neanche una web tv, mi dispiace. No, perché sai, sono così preso dalle tartarughe, però no, però voi dovete tutti sapere che noi stiamo registrando all'interno di una tartaruga, nel meraviglioso mondo di una tartaruga. Siamo in Nuova Zelanda, no? Sì, esatto. E comunque, a breve, se Bogo tossisce, molto probabilmente ci vedranno anche in video. ecco i nuovi gadget. Eccoli qua anche i Beastie Boys, che arrivano con un remix di Fatboy Slim. Perché voi non avete mai fatto un remix di... No, i Beastie Boys fanno il disco, sì, Fatboy Slim, no, sì, remix. Scusa, comincia seriamente a essere tardi. Tardi per il tardone. Questo Mac Pentium Zero hanno attaccato un adesivo sul computer. È meraviglioso. Comunque, prima di parlare un attimo di Beastie Boys, motivo in più per andare al New Age Gadgetlandia, tra l'altro. Prima sì, Music for Youth regalerà un sacco di gadget. Sì. Regaliamo delle buoni per delle signore bene. Facciamo anche un premio alla miglior tossita. Ho visto che si distribuiscono magliette in muso ai primi 100 che entrano. Ringraziamo infatti anche i nostri partner istituzionali, Daimo, che sono Fuzzy Shop, il tempio della streetwear San Donatese, ormai non solo, salutiamo il Genio e l'Elisa, credo anche che il Genio sia stato ospite qui. Sì, purtroppo sì. Il Genio sia anche mio cugino, ma non sono sicuro. Era anche parecchio bevuto. Sì, questo non può che fargli onore. Pensavo la mia zia Mara, che sarà contenta. A tua zia Mara Maionchi, sì, tra l'altro. Grande. No, che appunto saranno partner della serata, e che in collaborazione con Stracassian, nonché Luca Cassiano, nonché Mr. Julian, The Turtle Man, questi se ne ridono, hanno realizzato una bellissima t-shirt, veramente figa, no? Sì, veramente sì. Bella. Infatti ce ne che sono sarà 100. Regalata un po' alla cazzo. Sì, però abbiamo un criterio. Dunque, in una frase avete sentito figa e cazzo, ragazzi, i principi fondamentali. No, nel senso che la regaleremo, non abbiamo capito come, perché stanchi della solita formula, prima arriva, meglio alloggia, abbiamo deciso di regalarla a chi se lo merita. Boh, quindi io me ne prendo una e me la porto anche a casa per pulire i vetri. Devo dire che questa t-shirt ha una stampa particolare davanti, fatta dal nostro grandissimo amico Mr. Giulio. Una stampa che vedrete voi. In coordinato troverete un CD fatto da chi? Ma da chi? Da chi? Dai Love in Elevator? No, da noi. Da noi, dei non rock. È un mixtape rock studiato per chi va con lo snowboard principalmente, ma lo posso non noi, che assolutamente ce ne fotte niente dagli snowboard, che fa freddo. Poi sabato sera lavoriamo, dunque la domenica non è che ci stiamo a prendere con lo snowboard. Voi non dormite mai? No, assolutamente. E anche perché prova tu andare in snowboard dentro una tartaruga. Esatto. Premesso che invidiamo chi va, insomma, sempre, no? No, io no. Io però... sì, a me piacerebbe provare. Ho provato una volta. Già mi metto, ci vediamo alle 7 per prendere l'autobus. Sono arrivato alle 3:15 e stavano già tornando indietro. Il giorno dopo, sì, tra l'altro. Infatti, quindi da allora ho rinunciato. Comunque, ragazzi, state diventando più cialtroni di noi. E se, vi ricordo che un programma radio ci va della musica, sostanzialmente. Okay, esatto. Stavamo parlando del fatto che io ho dato Buddy Moving a Fatboy Slim, in realtà di Beastie Boys, nella domanda perché non avete mai remixato i Beastie Boys. Perché non ve l'hanno mai chiesto, immagino, ma fatelo per conto vostro. No, dai, abbiamo anche qualche cappella, però il problema è che il BPM è un po' lentino per il nostro gusto. Per il vostro standard. Cioè, questo non significa che non si possa fare, però diciamo che su quel BPM lì, magari con DJ più di scuola hip hop quant'altro può fare un lavoro meglio del nostro sicuramente, però mai dire mai. Vabbè, Beastie Boys, mi raccomando, voi ragazzi che ci entrate, state ascoltando, mandateci le cappelle per fare remix. Voi, come avevo già detto una volta, ragazzi che entrate in stati anarchici per ottenere la perfezione interiore, ossia visti l'anagramma, chiedete di fare un remix a Gain on Top. Dai, sì. Intanto accontentatevi di quello che è già stato strasuonato a tutte le radio. Buddy Movie, Fatboy Slim remix su Music for Youth. Body moving, we be body moving, we be body moving, a body moving, we be body moving, a body moving. Where have you been? Packed like sardines in the tin. Take your gorgeous shoes you put on your shrimp fins. Cause when it comes to quarries, I'm known to swim. And that rock light up the place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving. E questa maratona va a chiudersi per la felicità di Gain on Top, ospiti questa sera in studio con noi sotto l'acronimo Gain on Rock, per sponsorizzare lo Sby Night Rock, che andrà a mostrarsi, a palesarsi in tutta la sua violenza il 5 di novembre. Alvise Favotto, sei addormentatissimo, capire. No, io sto apprezzando il profumino e mi chiedo cosa avete cucinato di buono oggi. Scende in silenzio. Tartarughe. Esatto. Per la felicità dei Love in Elevator, che abbiamo avuto in telefonica poco fa. Signor Bogo, mi dica. Sei tu a chiudere la puntata questa settimana. Hai le chiavi dello studio, tra l'altro, che poi chiudiamo anche tutto. Fuori albeggia. Fuori albeggia. Andiamo a Pavanel, ragazzi. Tre brioche da Pavanel, istituzione, sappiatelo voi in quel di Padova, sì, per chi sì, ci sta sì, scaricando. Esatto. Voi andrete al santo anche in questo caso, invece noi no. Santo subito. Se venite a Sandona, andate al santo anche a Sandona, perché c'è anche esatto, qui. C'è anche lì. Andiamo a chiudere con che cosa, caro Bogo? Con non un pezzo scelto da te. Ah, ok. Mi ero perso nei meandri della mia mente. Sì, chiudiamo con... Where is my mind? Esatto, è tutto come sempre. Nel frattempo il mio orologio suona la fine del mondo. Esatto, i Maya lo avevano previsto. Scusate, esatto, è il 21 dicembre 2012. La mia carrozza sta passando, tra un po' mi trasformerò. No, chiudiamo con un grande. Un'istituzione, un grandissimo, di cui sono grande fan, Johnny Cash, il cosiddetto il Man in Black, con una grandissima, un classicone, insomma, che ci traghetta verso questo weekend che arriverà, speriamo. No, l'importante è che tipo ci arriviamo noi, perché esatto. Mi sa che il weekend ci sarà. Detto anche Giovanni Schei. Esatto. Giovanni Schei, esatto. Sì, che vuole essere un po' anche un monito per tutti noi, soprattutto esatto. Per noi in questa stanza che dobbiamo cercare di tirare a campare. Esatto. Johnny Cash, Ring of Fire. Bogo, io ti ringrazio. Ah, io ringrazio voi, è sempre un piacere. No, Simo, io ringrazio te. È stato bellissimo, abbiamo le lacrime agli occhi. Grazie ragazzi. Sì, veramente, con voi le puntate vengono sempre strabene. Infatti... Volevo fare tre saluti ai cittadini sannonatesi. Punto primo, sì. Anzi quattro, alla Mister Giulio, io direi. A Mister Giulio, punto secondo, e Policlinico, Politecnico di Milano, perché sappiamo che siamo in onda. Forse. E anche a tutti quelli che in questo momento, ma solo a quelli, sono dentro al bar al Santo a Padova. Esatto. Santi subito anche loro. Esatto, il Politecnico. E a Momo, grande Momo, forza. Momo Stock. Eh sì, il nostro collega in quel di Radio Shadow 97.800, dove potete ascoltare questa puntata, scaricabile anche su www.musicforyouth.wordpress.com, YOUTH per i non anglofoni, www.gainontop.com. www.tunstunstrecords.com, spero di aver detto giusto, per scaricare tutto il materiale di Gain on Top, la loro label e tutti quei bei prodottini che sforneranno nel corso dei prossimi mesi, e per andare a vedere dove raggiungerli. Le date sono disponibili lì. Toto, ti ringrazio. Terzariolo, anche a te un grazie di nuovo ai Gain on Top. Balliamo perché... nel cerchio di fuoco. Sì, sì, esatto, esatto, perché senza di loro non mi avrebbero mai generato questo tripudio intestinale. Chiudiamo la puntata.